le cose per vedere se riesco a stare senza dipendenza. E vado fuori per cercare qualche entrata d'emergenza. La coscienza non ci vuole parlare con me. Troppi rimorsi rimossi perché li ho persi solo per vedere se riuscivo a stare senza. Cosa saresti disposto a pensare di me se non mi truccassi la faccia soltanto per te? Anche stavolta ho perso il filo tra illusione e la speranza. Vado in vacanza. Voglio l'eccesso, dimmi di te. Sono un riflesso senza lo specchio. Sono la luna sul vetro sporco. Della porta d'uscita sul letto. Se non mi sposto, se non mi tocco, conservo pietre che non ho scagliato. Perché per fortuna ho peccato, perché per fortuna ho peccato. Voglio di pericoli, te li voglio regalare. Dagli ai tuoi pensieri stabili, muovo.